Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Questi 19 del Partito Democratico si sono dimessi perdendo uno stipendio da 1.600-1.700 euro al mese. Che cosa gli hanno promesso in cambio? Perché è molto strano. Ecco, questa è la politica, ricatti incrociati, occhio che se non ti dimetti poi ti caccio dal Partito Democratico, questa è diventata Roma. Io devo dire che ho messo veramente la faccia in questa cosa e ho sempre ritenuto comunque il sindaco di Roma persona corretta. Devo prendere atto che siamo di fronte ad un bugiardo e onestamente questa è l'unica cosa che non mi sarei aspettato. Dire sono cittadino romano era un vanto, adesso è diventato quasi motivo di preoccupazione. Io sono convinto che con il lavoro del prefetto Tronca e di tutti coloro ai quali gli daranno una mano, il prefetto Gabriele e tutti i collaboratori che saranno scelti, noi saremo in condizioni di restituire ai romani fiducia ed entusiasmo. Hai capito il fiorentino? Hai capito il fiorentino? Vorrei subitissimo coinvolgere una cittadina di Roma doc. Hai capito il fiorentino? Veronica! Veronica, hai capito Veronica, il fiorentino? Buongiorno, prima di diventare subito aggressiva faccio un bel saluto a tutti, buongiorno, sì, sì. Buon lunedì, bella anche settimana, vi rendete, ah certo tesoro, grazie. Tu cosa c'entri, mica sei tu che hai creato questa situazione. Ma perché ti ho mandato il prefetto di Milano, la capitale morale. Ecco, in realtà stanno cercando di fare questo, di metterci in guerra gli uni contro gli altri, ma no, noi dobbiamo ma noi tesoruccio non ce la faremo mai, noi dobbiamo essere compatti, continuare a volerci bene e non permettere che incrinino l'equilibrio nazionale. Bene, mi vuoi bene? Sempre di più, so che tu ti sei battuto per Marino, so che hai cercato di evitare tutto questo, so che ti saresti tenuto stretto il prefetto Tronca, sì? E che non lo avresti mandato già il nome, già il nome è du Tronca. Tronca, ma senti, arriva Tronca. Cioè così, no? Che dà subito il senso di un'ascia che cade. Esatto. Tronca. Ecco. Però direi che è stato terribile questa assenza nel fine settimana in cui non abbiamo neanche potuto commentare tutto quello che stava accadendo. Ah, mi vuoi bene, mi vuoi far lavorare anche il sabato e la domenica. Molto bene. Sai, no, ma iniziamo così, iniziamo. Scusami, così. Ma la reperibilità dei medici, no? Quando ci sono delle situazioni di emergenza, è necessario esserci. Guarda, allora, lascia stare che io volevo vedere l'effetto che fa. Dicevo. Marino, rimani, voglio vedere l'effetto che fa i 26. In 26 proprio, ma disgraziati in tutti i modi. Questi consiglieri comunali hanno fatto una figura barbina. Mamma mia, ci hanno proprio rovinato sul più bello lo spettacolo finale. Eravamo tutti felicissimi. Appena c'è stato il ritiro delle dimissioni, anche un po' in anticipo sul tempo, non ha aspettato la domenica infatti. Sera. No, se sarebbe stato meglio, almeno adesso avremmo ancora il bimbo. brivido. Niente, sono riusciti. No, tutto venerdì, così, da un notaio. Così, no. Rovinando cioè, poi come... un fine settimana tutti noi. No, no, è terribile, è terribile. È come quelli che ti svelano il finale di un thriller. Ma incredibile. Cioè, eravamo 26. Tutti lì appesi alle sedie. E poi la gioia soltanto di sapere la quantità di problemi che stava creando al PD. Ma la mia unica felicità è quanto almeno si sono smascherati tutti quanti. Personaggi, personaggetti. Personaggetti. A noi cara. Bravo. Cioè, in questo caso è ad uopo come Esposito e come causi, ma proprio il senso della vergogna non sanno che cosa sia. Va bene, licenziato! Eccolo qui, come sapete c'è la nostra Veronica Gentili, ma c'è un'altra romana doc che invece è contenta. Cara Veronica, tu non l'hai ancora conosciuta, ma te la presento, la presidente nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali, dell'EMPA, Carla Rocchi, contentissima, felicissima, perché odiava Marino. Buongiorno Rocchi. Sì, Buongiorno cari. Buongiorno. Si sa chi è peggio, la padella, eccala, la brace, eccala. Tronca, le piace questo Tronca? Sì, questo Tronca c'ha un nome da medioevo, da sì. Patibolo. Cioè, dice, lei cosa ha fatto? Ci ho rubato una gallina al patibolo, Tronca. Quindi comunque non avere più Marino è un sollievo. Se ti tolti un dente che fa male. Che brutta immagine. Dalle finestre di casa mia vedevo il balcone di questo cristiano, capito? E l'idea che fosse lì a fare questa serie di stupidaggini, perché il suo problema non è aver fatto cose pessime, che pure è il problema, ma aver fatto stupidaggini, Roma, tipo tanti difetti, gli scontrini, capito? È vero, la pedonalizzazione, è vero. Carla Rocchi vive lì sui fori imperiali. L'unica cosa che Marino ha dovuto portare fino in fondo, continuando a far bestemmiare per un attimo tutti i romani, è stata la pedonalizzazione. Non c'è niente, una stupidaggine colossale, ma poi è l'ostinazione, capito? Perché di tutto quello che c'era da fare a Roma, io non sono una benaltrista, perché dice c'è sempre il benaltro, no, ci sono cose. Però questa proprio no. Ma voleva andare sui giornali internazionali, e beh, è stato servito, ora c'è andato. Voglio vedere se sarà ricordato perché ha pedonalizzato Roma o perché ha fatto la serie di stupidaggini che ha fatto. Possiamo dire che però ai trasporti c'è stato messo Esposito, ormai da un po' di mesi la situazione va peggiorando, quindi adesso cioè peggio di così non lo so. Comunque peggiorando, infatti per il Giubileo vedremo con pezzi di metropolitana che cadono sulla testa delle persone. Speriamo di no. Visto che ne parliamo di sto cristiano, ma io non so se a voi è capitato mai di sentire quando Marino si presentò per sindaco, che tutti erano contenti, no? Perché adesso noi ce lo dimentichiamo, adesso tutti contenti che se ne va. Ma quando è stato presentato, tutti contenti, era arrivato l'uomo nuovo che sistemava i partiti, capito? Basta, arrivava quello che a Roma si la chiama società in modo civile. Che non posso dire. Cioè? Non si può dire. No, come? Non posso dire. Allora, basta creare un segreto e Milan no, non ma capisce infatti, più niente. Carla Rocchi, ve lo dico in italiano, sto cavolo, ma ha detto meglio. C'è arrivato sto cavolo, sto cavolo. Io gli feci la campagna contro, sono stata una delle pochissime. Ma subito, come mai? È stata la vendetta del babbuino, la storia. A me Marino, quando... È vero. È Veronica, perché allora... Bisogna raccontarla questa cosa. Adesso la raccontiamo un attimo. Prima apriamo il Parlamento, perché non l'abbiamo fatto alle 6:35 minuti. C'è Lorenzo Nespoli in redazione. Caffè, quindi se mai ci vediamo il nostro Peter Bescapè in regia. Tra l'altro, voglio dire, è il momento di Milano. Bacca davanti al portiere, Bacca porta vuota, Bacca! È il momento di Milano, tu Veronica lo sai benissimo che è il momento benissimo, di Milano. Soltanto perché ho letto che le due squadre calcistiche romane erano talmente annichilite dalle vicende che stanno vivendo che hanno preso. Perché lo sai ieri sera lo sai che c'è stata una partita a Roma. Certo, ha giocato la Lazio, sono stati presi gol su gol. Perché lo sai quanto è finita. Sono rimasta 3-0 e papà mi ha attaccato. No, dai, 3-1, dai, è stata onesta. No, la vendetta del babbuino. Ah, tra l'altro Carla Rocchi è tifosa della Roma, della Lazio. No, io non sono tifosa delle squadre, io sono tifosa delle persone. Delle persone. La vendetta del babuino. Allora, devi capire, cara Veronica, che Carla Rocchi, essendo presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ama gli animali e non ha mai perdonato a Marino il fatto di aver fatto un trapianto di cuore da un babuino a un essere umano. Ah, certo, questa io ve lo avevo detto, no, che era il periodo in cui invece Marino passava per un luminare, però io non mi... Ho capito, ma ha fatto un trapianto di cuore, ma voglio dire... Ma l'ha sbagliato, capito qual è il discorso? L'ha purtroppo fatto, sì, la cosa non andò bene, cioè fu un periodo di ricerca sperimentale e poi si decise, si stabilì. Vabbè, ma qual è il problema? Che non si può fare, non si può fare un trapianto di cuore a un babuino? No, non è che non si può fare un trapianto, a lui dissero, ma lei ha fatto un trapianto, ha sbagliato, il babuino è morto e non è servito a niente. E lui disse, sì, lo so che non è servito a niente, ma io lo rifarei. Ma certo, ma la scienza è così, No, ma c'era l'uomo pervicace, perché non è che dice sì, l'ho sbagliato, ma la prossima volta mi verrà bene. Da quel momento Carla Rocchi, quando gliel'hanno messo sindaco, ha detto no, l'uomo del babuino. Sapete che abbiamo rischiato di averlo ministro della sanità, questo qui? Lo sapete? Perché almeno qui ha fatto danni a Roma. È inviperita. Va bene, insomma, questa vicenda allora è finita, basta, adesso arriva Tronchi. Secondo me tutto. Marino darà una grande dimostrazione facendo vedere che non voleva nient'altro in cambio e non riusciranno a blandirlo dandogli delle altre cariche. Questo io lo penso e secondo me andrà così. Era veramente mortificato quando ha detto mi hanno accoltellato in 26, ma c'è un unico mandante. Il PD pagherà dazio, secondo me, per quello che ha fatto. Pagherà dazio. Pagherà, perché i romani, cioè, veramente essere esautorati di qualunque tipo di libero arbitrio e di possibilità decisionale. Abbiamo votato un sindaco, c'è stato proprio tolto la verità. No, Carla Rocchi non l'ha votato, no, perché piuttosto votava il babbuino, candidava il babbuino, la verità è che questo Tronca verrà e vi farà vedere col nerbo milanese come si sistema una città in 448. Comunque, noi il modello milanese vorremmo lasciarvelo, un'altra che Milano è la nebbia, Milano non c'è il sole, Milano guarda, oggi ho bocciato così. Cantone, ma Cantone cosa gli è preso, scusami, ma come una frase così infelice, ma come può uscire? Ah, attenzione, questa roba di Cantone, pensa che a me... Milano capitale morale, Roma non ha gli anticorpi, cosa? Ancora, sempre a voler cercare, questa è stata la premessa, cioè l'ho sentita, l'ho ribattezzato Cantone il censore, Cantone allora ha sbagliato, capito? C'è una N in più purtroppo. E va bene, insomma, che devi fare, è così. Attenzione, sono le 6.39 e ancora non è arrivato il selfie di Veronica Gentili. Non questa mi è cosa... stato chiesto espressamente e mi sono stata distratta. Questa cosa un po' ci infastidisce, sa Carla Rocchi che noi, Veronica Gentili, ha lanciato questa moda di mandarci un selfie mattutino, si può sentire libera di fare quello che vuole Carla Rocchi, vuole mandarci il selfie di un gatto anche, del suo gatto, un suo cane, quanti gatti ha i cani che ci ha detto? Io ho gatti perché vivo in città e in questo momento i miei 6 gatti e poi un piccolino che è venuto dalla Spagna. Ma lei su Twitter, ce l'ha Twitter? Io sono su tutto, ma con nomi di fantasia, perché mi piace vedere il mondo, ma non mi piace infilarmi. E quindi non può mandarci il selfie di un gatto, sennò si capisce che è lei con quel nome di fantasia. Difatti, sennò sono rovinata. Voi pensate a gatti bellissimi e uno di questi è sicuramente mio. Ma se ci manda una foto di questo gatto via mail e noi la pubblichiamo, diceva il gatto di Carla Rocchi. Ma è piccolo il gatto? Quello che è venuto adesso, l'ultimo è piccolo, poverino, si chiama Sipi. Vedete, basta per renderla gentile, Veronica, basta parlarle di un gatto. Cioè, è incredibile. No, ma vada avanti, Carla, vada avanti, su, che così la ingentiliamo un po' davvero. Poi? Nomen, è tutto grazie ai gatti. Poi dopo, cosa ci può dire di questo gattino? Che così Veronica si scioglie proprio. Guarda, Quanto ha questo gattino? Ecco. Questo gattino, a vederlo, poverino, è un po' striminzito, perché era un gatto destinato a finire in Perrera. Questi posti deliziosi che ci sono in Spagna, no? Molto civili, molto carini con gli animali, devo dire. Insomma, è arrivato qui, sto gattino aveva bisogno di cure che non avrebbe mai avuto possibili lì. E quindi sta con me, gli altri 6 lo guardano come si guarda... Ma quanto ha? Avrà, è preso dalla strada, avrà poco più di un anno. E però piccinino, insomma, ecco, sta qui con me, contento. Vedete, vedete Veronica come si è proprio si è... Ma vedete che l'animo gentile si vede sempre. Ma certo, quando si tira fuori un gatto, un cane. Quando ci sono delle creaturine indifese, capito? No, ma non infatti, come te, Milan. Ma infatti, infatti, adesso visto che sei tutta ingentilita, sei tutta ingentilita, vorrei parlarvi di Vincenzo De Luca, un uomo che... No, però, questo è scorretto, ecco, capito? Ecco, lo sapevo. È come quando si va alla fine degli spettacoli teatrali dagli attori e li si insulta, no? Gli ha fatto schifo lo spettacolo, aspetta la mattina dopo perché l'attore ha ancora il cuore aperto. Stesso discorso, non mi parlare del micetto e poi cominci con De Luca. Con De Luca, no? Con De Luca, non so, Carla Rocchi, Vincenzo De Luca è un personaggio rispetto a Ignazio Marino che può vederla un po' più, un po' ma più che, gente. Ma come, ma io dico, ma che dobbiamo fare? Ma che male abbiamo fatto? Ma perché? Cosa ha fatto Vincenzo De Luca? No, perché Vincenzo De Luca è, ha quest'aria, come posso dire, da commediona napoletana. Sì, sì, Oggi sono stato a Salerno e per la strada c'era una mosca. Questa è una cosa deprecabile. Sì, più o meno parla così. Sentite per esempio cosa ne pensa di Miguel Gotor. Avete presente? È stato grande però, eh. Miguel Gotor, lì è stato grande, senti qua. Tale Miguel Gotor. Io pensavo sinceramente che fosse un ballerino di flamenco, un tanghero. È quello che ha lanciato per aria il grido di dolore più straziante. Gotor. Un grido di dolore che si è diffuso, diciamo, per le valli dell'Appennino emiliano, di porcilaia in porcilaia. Dai Veronica, questa non è male, è Gotor, un ballerino di flamenco. Non è male, non è male questa Veronica. Di la verità, stai ridendo anche no, tu no, Veronica, no. Stai ridendo anche io tu. Io rido perché penso che lui dovrebbe fare un altro lavoro e avrebbe dovuto fare il comico, questo lo penso. L'attore, e... l'attore drammatico. Assolutamente, no, ma quale drammatico, non lo senti? È di una comicità volontarissima. Ma non involontaria, notevole. Detto questo, siamo ormai a dei livelli, io non so con che coraggio quelli del PD non dicano sospendiamo tutto, lasciamo stare un attimo la Severino, speriamo che anzi la Severino ci salvi come sempre, ma a parte questo, dopo tutto quello che è riuscito a dire sulla Bindi prima, il cattivo gusto, abbiamo rimpianto Berlusconi, in compenso le battute di Berlusconi avevano quasi un che di simpatico, dopodiché continua, è talmente la tracotanza che anche dopo 24 ore, perché hanno aspettato il tempo che il malato morisse per la Boschi e i vari, per dire che era stato alquanto sgarbato con la Bindi, ha anche detto pure loro, questi farisei, questi finti piagnistei che si fanno, e poi se la prende anche Gotor, non è male. Ma non solo, se la prende, qui Carla Rocchi, bisogna inserire tutto un discorso sul cibo, no? L'ha vista le questioni della carne, la carne non fa bene, la carne non fa male, la carne di qui, la carne di là. Senta bene De Luca, Per il resto poi non bisogna esagerare, la carne è cancerogena, la mozzarella la diossina, il caffè fa male, la pizza bruciata fa male, decidiamo di fare i fakiri, diamoci alla contemplazione, dobbiamo pure campare, per il resto stiamo tranquilli e se ci dobbiamo fare un ragù facciamocelo in grazia di Dio. Per carità, insomma, saranno anche delle prelibatezze, immagino una frittura di cavallette. Sarebbe una goduria. Come la vede Carla Rocchi questa storia degli insetti, si possono mangiare le cavallette almeno, no? Voglio dire che questa storia, uno si mangiasse quello che vuole sto santomo, ma il punto è che quello che dà fastidio a tutti non è nessuno è obbligato né a mangiare né a non mangiare, però le cose si sanno. E la cosa che dà più fastidio è essere informati. In fondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto con un ritardo di 20 anni quello che si sapeva da sempre, cioè che le proteine animali fanno male. Dopodiché, se uno si vuole sfondare di proteine animali, padrone di farlo. Non è un problema. Il fatto è che le persone vogliono sfondarsi, ma non nemmeno sapere che fanno male. Anzi, ci vuole qualcuno che dica no, fanno bene. Ci salveranno gli insetti, oppure non si possono toccare manco quelli. Ma gli insetti che diventano, si immagini un po' se l'insetto può essere mai una scelta salutistica. Questa era una delle infinite cavolate. dietro le quali c'è un business, perché in altri paesi no? c'è un miliardo di persone al mondo che già mangiano, no? Che tutti. Già mangiano, ma sai che sono già pronte le barrette proteiche con gli insetti, che io già le barrette quando le vedo mi fanno un po' impressione. Figuriamoci se uno può immaginare che dentro ci siano gli insetti. No, ma voglio dire, da presidente dell'EMPA se non si può mangiare manco una cavalletta, immagino, no? Povera cavalletta. Da presidente dell'EMPA io dico che non si possono mangiare schifezze, perché tutti pensano che i vegetariani e i vegani siano degli infelici. Noi siamo così contenti. Si mangia bene, si sta in salute, si dorme bene, gli anni passano con più lentezza e si ha pure la coscienza pulita, che voglio dire che non è fa male. Non è male, perché lei è vegana, non vegetariana, vegana. Io sono vegana con una sola debolezza, ve lo devo confessare, cioè? Io mangio il miele, i vegani veri non mangiano il miele. Ah, perché però questa debolezza secondo me gliela possiamo passare. Gliela possiamo passare, col tempo lascerò anche questo. Va bene, ci stiamo lavorando. L'incarnazione del maschio alfa. Aspetta, maschio alfa, che devo andare al traffico, poi lasciami il maschio alfa tra poco. Mandaci il selfie, fai la brava. Amone, Milan, rimenati, traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Che peccato che il PD ha tolto il giocattolo a Milan, perché Marino gliel'ha regalato per il divertimento e il PD gliel'ha tolto. Oh, ulala, come ti diverti adesso? A Marie, più che ritentare di ricucire, forse vi conviene tornare a tagliare, va? Ciao Alessandra, ma io non sono arrabbiato. Devo dirti semplicemente che sei fortissima, perché riusciresti a far ridere anche un bipolare in una fase depressiva. Assai gli stessi coglioni che ha sentito tutte le mattine. Poi stamattina c'era quell'antifasi appena Veronica Sentini. Dimmi che trasmissione ti hai fatto stamane. Messina. L'acqua manca, ma diamoli il chardonnay. Ma sì, dai, un po' di chardonnay a Messina non è male. Veronica, c'era quello molto arrabbiato con te, credo. Chi è che c'è? Chi non è? So, c'è, era Fiorentino. È inutile che fai subito sì, scarica. Sì, con me è arrabbiato perché ti do voce, e con te perché hai la voce. questo è. Aia, quindi se mi faccio tagliare le corde vocali va bene? No, per carità. Comunque è arrivato, credo, il selfie di Veronica Gentili. Attendiamo invece, se vuole, da Carla Rocchi un selfie, se ce lo manda via mail, noi possiamo anche come vuole. Allora io vi posso mandare una fotografia di questo gattino. Sì, allora la mandi qui via mail a 24 mattino, proprio 24 mattino, @radio24.it. Arriva. E noi mettiamo. Così facciamo un po' di pet therapy, esatto. E io magari sto un po' buona. Esatto, ci scrive anche come si chiama bene, che poi sbagliamo magari a scrivere, sono cose terribili, poi il gattino ci sfodera gli artigli e via. No, figuriamoci. 24 mattino, @radio24.it. Arriva. e noi atteniamo il gattino di casa. Poi possiamo pubblicarlo su Twitter, i nostri profili? Sì, certo. Benissimo. Basta che mi lasciate in incognito. No. Noi mica diciamo è il gattino di Carla Rocchi. E poi dopo. Lei non ritwitti, però non faccia questo errore, perché sennò si scopre subito. No, io sto proprio zitta, non mi preoccupare. Si ritwitta da un account strano, poi la beccano. Dico, eccolo qui, cos'è l'account di Carla Rocchi. Allora, detto che vi mando il gatto, sì? una sola cosa è mancata in questa saga di Marino. Sì. Ma voi ve la ricordate della canzone? Oi Marì, quanti sogni ha giù perso per te? Nessuno ci ha pensato. Effettivamente. No, questa no, ma l'altro giorno mi segnalavano Marino. Pure questa niente male. Anche quella niente male. Vabbè, tutti a prenderlo in giro, io sono infastidito, come dice quella signora. Ma sì, m'han tolto il giocattolo. Io volevo vedere in consiglio comunale, prendevo il treno e venivo a Roma a vedere il consiglio comunale definitivo di Ignazio Marino. Proprio lì, così saresti venuto qui e non avresti chiamato come dopo. Mamma mia, ce la su con questa cosa. Non ho ancora visto il gattino. No, vabbè, il gattino adesso arriva via mail, poi lo dobbiamo caricare, insomma ci vuole un po' di tempo. Però vorrei parlare in questi 2-3 minuti finali di un personaggio per il quale anche Renzi ormai ha detto basta, non se ne può più, fa una gaffa al giorno. Stiamo parlando del capo del calcio italiano, Tavecchio. Scusami, è tutta tra Tavecchio e Buè. Boeri che vuole tagliare i vitalizi, scegli Tavecchio, è una grossa rinuncia per vabbè te. Ma Boeri ha proposto di tagliare i vitalizi, ma si ho sa pensato che stamattina tu fossi in una fase bacchica facendo, capito, festini no. Ma la verità è che Boeri ha proposto di tagliare i vitalizi, ma non dipende da lui, non dipende certo dal presidente dell'INPS. Intanto ci ha provato, Renzi ha fatto l'errore fatale di metterlo lì, non ho capito dovuto. Ma ci ha provato, ma tanto non può fare niente, non so. Ah, tra l'altro Carla Rocchi prende il vitalizio, lo abbiamo detto l'altra volta, che destina tutto a cani, gatti, e se tagliano il vitalizio ho avuto un'offerta di lavoro. In che senso? Siccome io faccio dei dolci buonissimi, appena tagliano il vitalizio io mi metto a fare crostate, reintegro quello che manca e i gatti mangiano lo stesso. Lo vedi, perché c'è chi le cose le sa fare, crostate... c'è chi invece non sa fare nient'altro. Quello è crostate il vegane, ovviamente. Sì, buonissime. Guardate, mi dispiace che non vi posso mandare un selfie di crostata. Peccato. Vabbè, tanto col selfie mica si capisce se è buono o no. Adesso non è che non è questo che... lo dici tu, perché tu hai capito, sei cieco. Vabbè. Io vedo oltre. Niente, ormai siamo agli insulti più totali. Veronica Gentili mi ama, ma si sa, che, Raimondo, sì. si sa, chi disprezza compra, si sa. Va bene, allora. Allora, Tavecchio, un uomo che è a capo del calcio, e in questa registrazione, devo dire però, qua spezzo una lancia per Tavecchio. Una registrazione che qualcuno oggi sul giornale ha definito giustamente una maialata, perché cioè andare con a fare una chiacchierata tutta simpatica di un giornalista che ride con lui delle battute e intanto registra di nascosto. Anch'io sono d'accordo, ma una l'ha addirittura imbeccato. Sì, cioè, addirittura quella, non si sente benissimo, ma insomma l'ha quasi fatta dire lui. Tavecchio, sì, definisce Tavecchio, la gaffa ce l'ha nel sangue, si sa che è fatto così, però in questo caso veramente gliel'ha buttata in bocca. Sì, esatto. E definisce questo signore un ebreaccio, non so neanche chi sia questo signore, sentiamo. Tutto il patrimonio di Cecchi Gori lo rileva un certo Anticoli. Sì. Si è sentito poco, ebreaccio, ha detto un ebreaccio. E poi vabbè, insomma, va avanti e questo giornalista gli dice Umberto Eco disse sì, meglio tenerli da parte, meglio. Poi fa le battute sugli omosessuali. Insomma, è così. Quella su cui l'ha proprio imboccato, cita Umberto Eco, gli fa l'ammicco un po' amicale e lui ha risposto. E poi registra tutto. Però certo che questo qua è un personaggio che disse anche la famosa frase su Optipo Ba, calciatore che si mangia le banane, e l'abbiamo messo in Serie A. Carla Rocchi, elegante. È così elegante. Guarda, questo è uno dei casi non rari in cui una persona la vedi e Lombroso, la vendetta di Lombroso, lo vedi e dice adesso apri bocca che dirà, e uno dice la banana e le cose, perché proprio si vede che ce l'ha, che anni di battutacce l'hanno forgiato nel marmo. Comunque credo che una persona così non possa stare a ricoprire il ruolo che ricopre, è così, a sensazione. Però dai, io vi devo salutare. Veronica Gentili, grazie per essere stata con noi, così come Carla Rocchi. Adesso metteremo il selfie del suo gattino, la foto, no, il selfie, il gattino che si fa un selfie è un po' dura, ma insomma la foto del gattino di Carla Rocchi. Chiudiamo con Optipo Ba, eccolo qua. Optipo Ba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. E va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, la 131esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata ufficialmente. Forza, sono le 7:18 minuti, come detto. E allora, dai, cari amici, è tempo di produrre Avremo ospiti oggi il direttore, l'ex direttore del Fatto Quotidiano, per la verità, Antonio Padellaro, nonché l'ex, a questo punto va detto, presidente del Consiglio Comunale di Roma, insieme a Oscar Giannino, dalle 8:15 per parlare di, ancora di Roma, quello che è successo, l'attualità politica degli ultimi giorni, ma non solo, intanto andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali. Questo lunedì 2 novembre, i titoli intanto, il Sole 24 Ore ha questa bella cifra che vi voglio subito dire, ed è in titolo di prima pagina: il fisco alla volata di fine anno, parte la caccia a 84 miliardi. Questa è la cifra che i contribuenti da qui alla fine dell'anno dovranno tirar fuori per lo Stato italiano. 83,7 miliardi per la precisione. Siete pronti? E buona settimana ovviamente a leggere questa bella cifra, 83 miliardi e 700 milioni che tutti i contribuenti devono scucire da qui ai prossimi due mesi. Poi la maggior parte dei giornali titola sulle elezioni in Turchia, Erdogan trionfa, la Turchia è sua, questo è il titolo del Corriere della Sera, così Repubblica, Turchia al trionfo di Erdogan. La Stampa, trionfo di Erdogan e la rabbia dei curdi, incendi e barricate. Il Messaggero, Turchia, il trionfo di Erdogan. Come vedete anche poca fantasia nei titoli. Mentre Libero apre sulle pensioni, vi diciamo quanto prenderete di pensione. Da oggi in distribuzione le buste arancioni. Il Giornale, il nuovo sindaco di Roma regala l'Expo ai profughi. Sindaco, tra virgolette, si tratta dell'ultimo atto del prefetto Tronca a Milano, destinare un pezzo dell'area espositiva, dunque dell'Expo, a un campo di accoglienza. Questo è in discussione, secondo il Giornale. Il Fatto Quotidiano, invece, mafia capitale. Desecretata la relazione sui dirigenti sospetti. Il governo molla la lista dei 101. Ma voglio partire da qui, perché l'Unità lo mette in prima pagina, il titolo, l'avete sentito anche nel giornale radio, è diventato il nuovo caso del mondo dello sport italiano. Il titolo dell'Unità in prima pagina è un calcio a Tavecchio. Ancora lui con insulti indecenti a ebrei e gay. Dopo aver fatto le gaffe su donne e calciatori stranieri, scrive l'Unità in prima pagina: l'Italia dello sport più popolare non può essere rappresentata da un personaggio così. La bufera su Tavecchio, che è successo, come ha rivelato il Corriere della Sera, c'è questa, come definirla, intervista, chiacchierata, sicuramente è un qualcosa di registrato e Tavecchio non sapeva di essere registrato. È una conversazione che il direttore di questo sito Soccer Life nel giugno scorso ha fatto con il capo del calcio italiano. E in questa conversazione Tavecchio definisce l'immobiliarista Cesare Anticoli un ebreaccio e ancora parla di un dirigente dicendo: è omosessuale? Non ho nulla contro, però teneteli lontani da me, sono normalissimo io. Certo, magari condito da battute, scherzando, certo anche senza che sapesse di essere registrato, questo appare abbastanza chiaro nell'audio rubato, anche un po' disturbato, tanto che Renzo Ulivieri, allenatore, presidente dell'Associazione degli Allenatori, sia Repubblica sia l'Unità, dice: premettiamo una cosa, chi registra una conversazione all'insaputa dell'interlocutore fa sempre una maialata. Certo, queste frasi sono gravi, ma la sensazione è quella di una maialata fatta a Tavecchio. Così Renzo Ulivieri. Il dato di fatto è che però lui, che rappresenta il calcio, non è nuovo a queste gaffe. Ricordate quella in cui definì le donne che fanno calcio un po' handicappate fisicamente rispetto agli uomini? Questo in una intervista al Report. Un'altra volta divenne storica parlando dei giocatori stranieri che arrivano qui in Italia. Disse: è come se noi prendiamo un Optipo Ba che mangiava banane fino a 2 anni fa e adesso lo facciamo giocare in Serie A nella Lazio. Ovviamente Optipo Ba è un giocatore che non esiste, ma insomma, questo fa capire le gaffe di Tavecchio. Tanto che Tutti i giornali titolano bufera su Tavecchio. Se ne deve andare, questa è la sensazione anche del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il quale però non può intervenire in prima persona. Ma raccontano tutti i giornali, per esempio il Corriere della Sera con Andrea Arzilli, pagina 9, Renzi è allibito, il suo governo non interverrà direttamente in questo Tavgate, cioè Tavecchio, ma frase affidata ai suoi più stretti collaboratori da parte del Presidente del Consiglio è: così non si può più andare avanti, ne combina una al giorno e soprattutto non può rappresentare lo sport italiano più amato nel momento in cui ci candidiamo alle Olimpiadi a Roma. Tra l'altro il Corriere della Sera con Fabrizio Caccia va a raccogliere anche il parere di Cesare Anticoli, 87 anni, immobiliarista, colui che è definito ebreaccio nella conversazione. Ebreaccio a me. Rimango sorpreso. Io non vedo il presidente Tavecchio da quasi 8 anni, dal 2008, quando concludemmo la vendita di quell'immobile di Piazza Flaminio per la Lega Nazionale Dilettanti. Ma sentite cosa aggiunge Anticoli. Se devo dirla tutta, ricordo che anche all'epoca Tavecchio faceva battute su donne, gay, diceva cose razziste col sorriso sulle labbra. Ecco, io lo ricordo così, ma la cosa si commenta da sé e non voglio aggiungere altro. Questo è il nuovo Tavecchio Gate. Sul Giorno, Tavecchio va cacciato. Su Repubblica, Tavecchio contro ebrei e gay è bufera. C'è anche un'intervista al presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, Renzo Gattegna, che dice: quell'uomo vive di pregiudizi, è inqualificabile, si deve dimettere. L'Unità invece intervista Ivan Scalfarotto, in quanto esponente omosessuale del governo Renzi, a dire se la prende sulla questione del razzismo e dell'omofobia presunta di Tavecchio. Insomma, direi che la bufera è servita. Quando succedono queste bufere, nel giro di 48 ore le persone si dimettono. Staremo a vedere nel caso di Carlo Tavecchio. Invece, ieri, per iniziare a parlare di cose legate alla politica, legate all'economia, Boeri, presidente dell'INPS, è andato alla Luce Annunziata in mezz'ora e ha lanciato questa proposta. Per carità, anche qui non spetta al presidente dell'INPS fare leggi, non spetta neanche al governo in questo caso fare leggi, perché quando Boeri propone il taglio del 50% per i vitalizi dei politici superiori a 80.000 euro l'anno, non può fare nulla neanche il governo, l'abbiamo detto più volte. C'è l'autonomia del Parlamento e quindi è una legge del Parlamento che dovrebbe modificare tutto ciò. Ma Boeri in sostanza ha proposto questo, il taglio del 50% per i vitalizi superiori a 80.000 euro. Sicuramente una proposta che tutti gli italiani, non c'è dubbio, appoggerebbero. L'idea del prestito non a carico delle pensioni alte, a carico di quelle troppo alte in rapporto ai contributi versati. Ha fatto l'esempio appunto di circa 200.000 pensionati, tra questi i parlamentari, ai quali l'INPS propone di ridurre i vitalizi fino al 50%. Ecco subito che Cesare Damiano su Repubblica, ex ministro al lavoro, intervistato a pagina 15, dice: non spetta all'INPS proporre leggi, faccia il suo mestiere. Il Parlamento ha il compito di fare le leggi, il governo di proporle. L'INPS è un ente strumentale del Ministero del Lavoro. Punto. Così Cesare Damiano chiude la questione. Ma lo dice a proposito del taglio del 50% dei vitalizi? Lo dico in generale, risponde Damiano. Io mi accontenterei di avere dati attendibili quando li chiedo. Tra l'altro, Boeri ha aperto un nuovo fronte. In sostanza ha detto di proporre un taglio fino al 12% sopra quota 80.000 euro. Il nuovo fronte è quello degli esodati, perché ha detto Boeri che il capitolo esodati non si chiude, non si sa ancora quanti siano gli esodati. Secondo il giornale, lo ammette perfino l'INPS, il caso esodati fuori controllo. Comunque sono questi due temi che hanno in qualche modo rilanciato le polemiche, la questione degli esodati e la questione della proposta del taglio dei vitalizi che viene da Boeri, ma ora dovrà essere fatta propria da qualcuno in Parlamento, altrimenti rimarranno tali. Mentre invece torna un po', e ogni volta che fa delle dichiarazioni suscita qualche polemica, qualche dibattito, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, imprenditore, il quale di recente aveva fatto un po' scalpore quando aveva proposto di vendere anche dei quadri per fare cassa al comune di Venezia. Ebbene, eccolo qua, sul Corriere della Sera ne lancia un altro paio che faranno discutere. Pagina 25, grandi navi, l'idea di Brugnaro. Sapete che c'è la polemica sulle grandi navi che entrano in laguna. Entrino in laguna pagando. La trattativa è avanzata, ora non posso dire molto di più, dice il sindaco di Venezia intervistato da Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera, ma vorrei un pagamento per le navi che entrano in laguna. Ho incontrato gli armatori, vista la situazione di incertezza, ha detto io vi garantisco che continuerete a entrare fino alla marittima, ma pagate. C'è una trattativa avanzata, non ancora definita, non posso dire molto di più. A proposito di pagamento, non è una proposta solo per le grandi navi. Brugnaro vuol far pagare anche i turisti. Sentite qui cosa dice. Ho chiesto al governo di poter fare una ZTL pedonale, cioè una zona a traffico limitato, solo per il centro storico. Vorrei un pagamento diversificato a seconda del periodo di permanenza, perché un conto è stare una settimana, l'altra è fare una toccata e fuga. Chiaramente l'accesso resterà libero per residenti e lavoratori. Dunque sto studiando una tassa anche per i turisti in centro, che varia in base al periodo di permanenza. E ancora... Il concetto di Brugnaro è proprio gli schei, soldi, soldi, soldi. Anche con Elton John, con il quale si è scontrato, non ho ancora superato quella polemica, ma dico tira fuori schei, nel senso che se sei molto ricco e dici di amare questi calli e campielli, dammi una mano a salvare la città. E ancora Brugnaro se la prende con Adriano Celentano, che l'ha criticato dicendo povera Venezia, in che mani sei finita. Son disposto a parlare anche a lui, son disposto a spiegargli tutto con calma. Certo, ci vorrà molta calma, è un problema anche di età. Così Brugnaro su Adriano Celentano. Vabbè, non le manda a dire, eh? Luigi Brugnaro, nuove polemiche. Oggi voglio far pagare i turisti e le grandi navi sul Corriere della Sera. Vabbè, siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata. L'articolo che ci fa tenere le mani sul volante oggi è sul giornale. Andrea Quarone racconta questa storia tragica di cronaca che proviene da Monza. Una moglie in casa e una nel garage. L'Islam ci ha portato la bigamia. Succede a Monza, dove un egiziano è stato scoperto per caso dai carabinieri che sono intervenuti, pensavano un caso di stalking nei confronti della moglie, e invece hanno scoperto che questo egiziano teneva la consorte ufficiale, dunque la moglie, nella casa e la seconda famiglia nel garage della stessa casa. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! State ascoltando un programma offerto da Salmoiraghi e Viganò. Dai Milan, stammi a mollare, schiena dritta e avanti, dialetto mantovano. E avanti, evviva il dialetto mantovano, 024652-4492. È il numero per la segreteria telefonica, lasciare le vostre sigle per la rassegna stampa, e vi ringrazio fin da ora, cari ascoltatori. Allora, io avevo detto Marino resisti per vedere l'effetto che fa. Marino ha resistito, ma poi, come dire, davanti a un notaio in 26 consiglieri comunali si sono dimessi e dunque è finita la vicenda Ignazio Marino. Peccato sul più bello, proprio come svelare l'assassino a 5 minuti dalla fine di un film. E vabbè, comunque ora c'è il prefetto Tronca, il prefetto di Milano, che è stato subito nominato commissario a Roma, ha incontrato ieri il Papa, si è insediato e oggi incontrerà Renzi, come racconta Goffredo De Marchis a pagina 10. C'è la squadra da fare, anzi il Dream Team da mettere in piedi per governare Roma. Ci sono già i primi nomi che girano. Repubblica dice che a cominciare dai trasporti sicura è la nomina di Marco Rettighieri, anche lui arriva dall'esperienza Expo. Oh, cari amici romani, arriviamo noi milanesi a sistemarvi. Il prefetto Tronca, Marco Rettighieri, la capitale morale d'Italia. Che dobbiamo fare? Vabbè, vogliatemi bene. soprattutto se siete tifosi della Lazio. Comunque, eccoci qui, oltre a Marco Rettighieri si parla di un altro candidato con precedenti nell'evento milanese, nell'Expo. Gloria Zavatta, esperta in sostenibilità, avrebbe la delega ai rifiuti, e a lei un'altra da Milano. Allo sport dovrebbe arrivare Giovanni Malagò, presidente del CONI, mentre alla cultura il favorito è Carlo Fuortes, che non è amato dal PD romano ma vanta risultati eccellenti all'Auditorium e al Teatro dell'Opera. Più complicato il recupero di Alfonso Sabella, magistrato ex assessore con Marino. Insomma, diciamo che arriva la squadra, forse a giorni, anzi il Dream Team e Ale. Il giornale fa una polemica sul prefetto Tronca, la notizia viene messa in prima pagina, viene definito così: l'ultimo regalo, il nuovo sindaco di Roma regala l'Expo ai profughi. È una proposta che per la verità aveva lanciato Vittorio Sgarbi sabato alla cerimonia di chiusura, dicendo: quest'area potrebbe diventare una cittadella per i migranti. E racconta il giornale con Chiara Campo a pagina 3. Il regalino inatteso c'è stato, perché tra gli ultimi atti del vecchio incarico il prefetto Tronca ha chiesto alla società di gestione Expo di mettere a disposizione il campo base, che dista qualche centinaio di metri dai cancelli del sito, per ospitare i profughi. Questione messa all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, presieduto da Giuseppe Sala, sempre più lanciato verso la candidatura a sindaco del PD. Eccolo qui, secondo il giornale, il nuovo sindaco di Roma che regala l'Expo ai profughi. Questa è dunque la polemica che finisce sui giornali. Per la verità, legata a Roma c'è un'altra polemica. Giovedì si apre il processo a Mafia Capitale e... come racconta il Messaggero, viene tolto il segreto dall'elenco dei 101 dirigenti, è la cosiddetta lista dei 101. Di che si tratta? Beh, questa lista dei 101 dirigenti, che secondo la commissione d'inchiesta che ha dato il via a tutto il processo di Mafia Capitale, sarebbero in qualche modo coinvolti in questa vicenda, questa lista dei 101 dirigenti finora era segreta. È a conoscenza della Procura di Roma, è stata consegnata, ma giornali vari, il Messaggero ma anche il Fatto Quotidiano da giorni dice: bisognerebbe renderla pubblica questa lista di 101 dirigenti che sono stati citati dalla commissione ministeriale che ha fatto la relazione per Mafia Capitale. Ebbene, pare che i nomi ora verranno resi noti. Mafia Capitale via il segreto dall'elenco dei 101 dirigenti, la notizia che trovate sul Messaggero, sul Fatto Quotidiano, e dunque pare che ci saranno novità da questo punto di vista. Sempre su Roma si dibatte su chi saranno i candidati sindaci. Qualche giornale dice che il PD punterà su Fabrizio Barca, mentre dall'altra parte Berlusconi ha fatto già una sorta di endorsement abbastanza deciso nei confronti di Alfio Marchini. C'è da dire che questo ha creato un po' di malumore nel centrodestra, perché soprattutto Giorgia Meloni sarebbe stata, secondo alcuni, scaricata da questo buttarsi in avanti nei confronti di Alfio Marchini per Silvio Berlusconi. Salvini dice: vedrò Marchini. Ma anche lì, secondo altri, Salvini vorrebbe candidare Suad Sbai, ex deputata di origine marocchina, proprio a Roma. Insomma, chiaramente i partiti fanno dei grandi movimenti e stanno guardando avanti a quello che succederà. Questo lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire. Ah, oggi devo annunciare che quel debosciato di Mauro Meazza, nonostante l'Inter e la grande vittoria, sarà in ferie. È in ferie per 3 giorni, tornerà con noi giovedì. Comunque noi lo attendiamo sempre in testa alla classifica e a lei. Voglio proprio saltare sul Sole 24 Ore per approfondire questa cifra che viene bellamente spiattellata nel titolo di prima pagina e che farà la gioia di tutti gli italiani: 84 miliardi. Per la verità sono 83 miliardi e 700 milioni di euro. È la cifra che i contribuenti italiani dovranno sborsare in tasse a novembre e a dicembre per finire l'anno in bellezza. Ah. Per le imposte di fine anno una corsa da 84 miliardi. Ci sono tutti i dettagli a pagina 2-3 In agenda, d'altronde, ci sono oltre 500 scadenze tra pagamenti, modelli e altri obblighi. Qualcuno potrebbe prenderla come una provocazione, scrive Il Sole, ma lo scadenziario del fisco ricorda che oggi, volendo, si potrebbe pagare la seconda rata degli acconti di Unico, vale a dire IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca da versare entro il 30 novembre. In realtà, più che avviare un improbabile scatto ai pagamenti, la data di oggi segna l'inizio di una lunga volata agli adempimenti che si chiuderà il 28 dicembre con l'IVA per un totale dei contribuenti di 83,7 miliardi di euro. Tutti i dettagli su come pagare, visto che voglio rallegrarvi la settimana, li trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. A proposito di Sole 24 Ore, c'è anche questa notizia che mi ha colpito e che riguarda la legge di stabilità e le università italiane. Lo racconta Gianni Trovati in prima pagina, il titolo è questo: università, allarme, matricole al sud. E poi tutti i dettagli sono a pagina 6. La legge di stabilità, scrive Trovati, tace su borse di studio e simili per chi si iscrive all'università. È un silenzio che fa rumore, perché a inquietare è un fenomeno strettamente collegato al welfare accademico, l'esodo di studenti dagli Atenei del Sud, che hanno registrato un crollo, meno 14,5% nelle immatricolazioni tra il 2011 e il 2015. Ci sono punte negative di immatricolazioni al Sud, come a Reggio Calabria, il 40%, crollati gli studenti a Reggio Calabria negli ultimi 4 anni del 40%. Ebbene, nonostante ciò, nonostante al sud gli atenei siano sempre più vuoti, le borse di studio sono senza fondi e non c'è alcun intervento in legge di stabilità. Questa è la denuncia di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore a pagina 6. A proposito di legge di stabilità, c'è questa polemica sui money transfer. Sapete che la polemica più ampia è quella di aver alzato a 3.000 euro il limite del contante senza controlli. Questo vale anche per i money transfer, l'abbiamo visto anche qualche giorno fa. I money transfer sono quelle attività che vengono utilizzate per trasferire denaro all'estero, solo che spesso sono finiti questi centri anche all'interno di inchieste dove si parlava di riciclaggio di denaro. Ed ecco allora che, siccome l'aumento del contante vale per tutti da 1.000 a 3.000 euro, vale anche per i money transfer l'aumento a 3.000 euro. Qui è partita un allarme, è partita una denuncia. Il sottosegretario Zanetti all'economia dice: è stata una disattenzione tecnica, bisogna far rientrare almeno per i money transfer il limite dei 1.000 euro, altrimenti qui c'è davvero il rischio di far partire delle operazioni di riciclaggio di denaro imponenti. Paolo Baroni lo racconta a pagina 10 della Stampa. Nella norma che alza il tetto all'uso del contante c'è questa falla che riguarda proprio i money transfer, le attività che si occupano del trasferimento di denaro contante all'estero. Pensate che hanno gestito circa 40 miliardi a livello europeo, con l'Italia che è seconda solo alla Francia con una quota del 20%. Timore è proprio quello che qui si annidi molto dello spreco e del riciclaggio di denaro, e quindi si vuole, almeno dal sottosegretario all'economia, ripristinare questo tetto a 1.000 euro almeno per loro. Notizia prima del traffico che riguarda il Vaticano. A proposito di scandali, lo scandalo VatiLeaks, sarebbero in azione nuovi corvi che avrebbero dato dei documenti, hanno dato dei documenti che sono la base di due libri usciti in questi giorni, vale a dire Via Crucis di Gianluigi Nuzzi e Avarizia di Emiliano Fittipaldi. Le anticipazioni pubblicate di questo libro con nuovi documenti, per Nuzzi non è la prima volta di aver scritto già due libri, ha già scritto due libri molto molto importanti proprio grazie anche a documenti che sono stati lui forniti da fonti vaticane. Ebbene, secondo la stampa sono stati già individuati questi corvi che hanno dato i documenti ai giornalisti. Lo scandalo VatiLeaks, già pronti due mandati di cattura, racconta la stampa con Andrea Tornielli e Gian Giacomo Galeazzi, due vaticanisti. Il cerchio si stringe, sarebbero un prelato e un laico che hanno fatto uscire le carte della commissione incaricata di studiare la riforma delle strutture economiche del Vaticano. sono stati già individuati, giura la stampa, e sono imminenti gli arresti. Tornano gli arresti in Vaticano. Traffico. A Milan, io voglio sentire il traffico, traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Uè, Alessandro Milan, viaggiano di zie... Ma chi è? Chi è? Evviva, caro ascoltatore. Allora... Sul Corriere della Sera parla il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi. Viene intervistato da Stefano Agnoli a pagina 17. Argomento dell'intervista è l'ingresso tra i soci del francese Javier Niel, imprenditore che tra opzioni equity swap ha potenzialmente in mano il 15% della società. E dunque ecco qui che Recchi parla sul Corriere della Sera. Rientravo da una missione all'estero, ho colto l'occasione per andare a trovare il nostro nuovo socio. Ci siamo incontrati a casa sua, un incontro doveroso visto che è diventato un azionista di rilievo. E che impressione ne ha ricavato? Beh, ho visto un imprenditore molto competente, con una storia personale ben nota, presente in diversi paesi, e ogni investitore è benvenuto, dice il presidente di Telecom. Già, ma il mercato si chiede di che genere sia l'intervento di Niel. Che le ha detto al proposito? Mi ha detto che storicamente con i suoi interventi punta a creare uno stimolo per l'efficienza per un business model vincente, uno stile amichevole. Sì, ma se si propone così, perché ha comprato opzioni e non direttamente azioni? Di questo non abbiamo parlato, ma tendo a separare il livello degli azionisti da quello del management. Noi dobbiamo dimostrare e mostrare la nostra capacità di ottenere risultati e il massimo dell'efficienza e portare a compimento un piano industriale. Poi Recchi dice comunque Telecom resterà italiana e definisce così Niel, e questo è il titolo, un azionista amichevole. Così parla il presidente di Telecom Italia, rispondendo dunque anche ai timori di un socio francese, una scalata francese a Telecom. Oh, c'è molto di esteri sulle prime pagine dei giornali. Perché? Perché molti giornali aprono sulle elezioni in Turchia, che hanno visto un successo clamoroso, per alcuni versi inaspettato, del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, fondato dall'attuale Presidente della Repubblica Erdogan nel 2011. Ha preso circa il 50% dei voti e dunque più 9% rispetto alla consultazione che c'è stata a giugno, e soprattutto la maggioranza assoluta in Parlamento con 316 seggi. Erdogan vince la sfida alle urne, in piazza la rabbia dei curdi, soprattutto a Diyarbakir, capitale dei curdi, dove il partito curdo perde molti voti, sono iniziate le proteste di piazza. Ci sono tante analisi che trovate sui giornali, vi segnalo Antonio Ferrari, la riscossa del sultano che ha plasmato il partito a sua somiglianza e che Merkel benedice, un ritratto di Erdogan definito megalomane, autoritario, piace però a chi vuole stabilità nel paese. Così come vi segnalo Marco Ansaldo, la rabbia proprio nelle strade di Diyarbakir con i curdi che dicono resistiamo però in Parlamento. Certo, la Turchia con questo voto è un osservato speciale per quello che succederà nei prossimi mesi. Così come osservato speciale ormai da tempo è la Libia. Ieri però c'è stato un episodio certamente non simpatico anche per l'Italia. La Libia all'attacco dell'Italia. Via le navi dalle nostre acque. A un certo punto il governo di Tobruk col generale Haftar ha fatto questa dichiarazione dicendo che appunto c'è stato uno sconfinamento da parte di alcune navi italiane nelle acque libiche, navi militari italiane, e la Libia minaccia state lontani o reagiremo. Sono frasi che si sentivano nell'epoca del migliore Gheddafi, quando era in forma dal punto di vista bellico. Ebbene, nulla serve dalla parte italiana la notizia diffusa della smentita che acque territoriali libiche siano state violate da navi italiane. Il Ministero della Difesa, come racconta Dino Martirano a pagina 5 del Corriere della Sera, ha smentito il governo libico di Tobruk, che tra l'altro ricordiamo è il governo riconosciuto internazionalmente, che aveva detto sulle colonne del Libya Herald: caccia libici hanno sorvolato a bassa quota le navi italiane come segnale di avvertimento senza colpire. Sta di fatto che la tensione aumenta, ci sono stati anche scontri, è stato profanato un cimitero italiano proprio a Tobruk e direi che la situazione è una situazione molto molto complicata. Così come a livello internazionale, beh, fa molto scalpore questo jet che è precipitato sul Sinai, jet russo di questa compagnia Metrojet, 224 passeggeri a bordo, anche perché secondo quello che raccontano i giornali, appena decollato da, credo, da Sharm el Sheikh, dicono praticamente è esploso in volo, si è spezzato in volo. Non è escluso neanche da parte della Russia l'ipotesi di un attentato. L'ISIS ha rivendicato dicendo l'abbiamo abbattuto, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope, in realtà non c'è nulla di certo, ma non è neanche escluso che possa davvero essere un attentato. Pensate questo come colpo al turismo, cosa vorrebbe dire per l'Egitto. Vabbè, ma chiudiamo con la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. No, prima la Gazzetta. Arriva il Miha Milan, Miha Mihailovic. Ma la carta costa è una pagina intera sui jeans strappati sul Fatto Quotidiano, dove il dandy diventa un insulto alla miseria. I jeans strappati. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar Giannino. Buon inizio di settimana caro Alessandro Milan e cari tutti gli ascoltatori. Sono le 8 e 16 minuti, ben trovati tutti. Allora, come va? E beh, oggi è questa giornata in cui il calendario liturgico ci fa commemorare i defunti, cioè i politici. Iniziamo così, delicatamente. Ah già, giusto, oggi i morti, quindi i politici, i defunti. Sì, in seconda battuta i contribuenti, visto che tra novembre e dicembre tireremo fuori 53 miliardi di euro. Ci avvisa il Sole 24 ore. No, sono di più, credo 84 miliardi. 84 sono il solito che voleva pagare un po' meno tasse. Volevi pagare un po' meno tasse. Sono 84, caro Oscar. Quindi non fare il furbetto, perché sono belle cifre. Allora 800 24 00 24. Io ci eravamo lasciati venerdì che ero lì, dai che vediamo l'effetto che fa, che Ignazio Marino invece puff, come un soufflé, si è sgonfiato tutto. Non c'era abbastanza resistenza, per così dire. Mannaggia, ma tutto così finito da un notaio, da un freddo notaio. Sì, e una nube di polvere, per così dire. Niente, finito tutto a Roma questa cosa. Adesso arriva, la capitale morale Milano, arriva il prefetto Tronca. Poi arrivano gente dall'Expo. Chissà come la prenderanno a Roma questa colonizzazione. Io ho scritto questa settimana un editoriale sul Messaggero dicendo non ripetiamola questa cosa di esportare a Milano il metodo Milano dovunque in Italia, perché non è così. Cioè, voglio dire, l'Expo era 1.000.000 di metri quadrati, c'è cioè 1 chilometro quadrato, ecco, Roma sono 1.284 chilometri quadrati. Ci sono un po' poi di appalti, un po' più di gare, un po' più di società. Storie decennali, comunque. Però chissà se questo metodo di esportare, adesso non è che esportano il metodo quando Expo, però esportano con lui il prefetto intanto, e ora il Dream Team arriverà, sì, oggi ci sarà da fare il Dream Team. Però io metto insieme due articoli che ci sono oggi sulle prime pagine di due giornali, quello sul Corriere della Sera di Antonio Polito, che dice insomma fine della politica, i manager, no, che poi sono anche i marchini, passa, cioè, ma intanto i prefetti, e dall'altra parte sul Fatto Quotidiano del lunedì Stefano Feltri che dice vogliono commissariare tutto, che danno l'idea di una politica che a parole vuole rivendicare la sua rilegittimazione di qua di là e poi alla fine fallisce tutto, perché fallisce. Questa è la sintesi. Comunque insomma la vicenda di Roma noi la tratteremo, avremo Antonio Padellaro, ex direttore del Fatto Quotidiano, avremo anche l'ex presidente del Consiglio Comunale, a questo punto dovrebbe dire ex perché è decaduto tutto, è tutto finito, a capire anche perché lei ha pianto, sai che ha detto ho pianto dopo aver firmato l'atto notarile. Ci faremo spiegare perché. Non lo so, cioè, perché ha pianto, si sente forse di avere in qualche modo preso parte a un tradimento, non lo so. Chi lo sa? Ce lo forse faremo perché ha capito che non erano all'altezza un po' tutti, perché... non lo so, comunque è la fine di un'avventura, diciamo, certo... però che a distanza di qualche ora quelle parole così shakespeariane di Marino sul tradimento, cioè, è tutto coperto di abbastanza tra grottesco, ridicolo, non lo so. Però Ignazio Marino prima o poi parlerà, racconterà, dirà la sua, non lo so, insomma, vedremo. Se vuole l'ex sindaco di Roma, i nostri microfoni siamo, ovviamente sono aperti. Allora, però un uomo del giorno sicuramente è il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ieri è andato da Luciano Annunziata. Perché? Eroe. Per me eroe. Un eroe, ma un eroe per cosa? Per i vitalizi? Per quello che ha detto ieri, ma anche perché continua a sottolineare che bisognerebbe fare un intervento in cui chi ha le pensioni in regalo con il contributivo, adesso lo so che chi in ascolto dirà ma no, erano le leggi, certo, di allora, sono in regola. Certo. Benissimo, però siccome abbiamo cambiato drasticamente e non è un paese per giovani questo, allora bisognerebbe rimettere mano a questo calcolo. E innanzitutto i politici. Infatti, tu, caro Oscar, tocchi un tasto dolente, perché io una volta che l'ho detto, cioè a dire ma scusate, siccome siamo un paese in cui dobbiamo favorire tutti, anche i giovani, chi ha preso un po' di più rispetto a chi ha preso meno adesso e chi forse non prenderà, potrebbe gentilmente, se lo desidera, contribuire un attimino. So che la reazione non è delle più. No, la reazione è a dire ho lavorato 40 anni, sì, sì. Meritavo questo e guai a chi me lo tocchi. Per carità, è una posizione, ognuno dal proprio punto di vista vive le cose in maniera sentita, che per carità non è bello andare a toccare la pensione che uno si è guadagnato. E va bene, allora lasciamo morire i giovani buttiamoli per strada, che il loro sangue non basterà mai, esatto. L'associazione Vampiri ringrazia, per così dire. Comunque, però almeno iniziamo dai politici, ecco. Sopra gli 80-85 mila euro. E infatti Tito Boeri ieri ha detto questo sui vitalizi. Per i vitalizi i tagli sarebbero abbastanza consistenti, noi proponiamo di equiparare i vitalizi a delle pensioni e quindi diciamo che per importi dei vitalizi superiori agli 80-85 mila euro all'anno si possono prevedere anche delle riduzioni che arrivano fino al 50% dei vitalizi. E su questo tutti gli italiani sono d'accordo. C'è un piccolo problema, caro Oscar, che non decide il presidente, esatto, dell'INPS, e non decide neanche il governo, volendo. Esattamente. Perché il Parlamento è autonomo, c'è questa magnifica parola, l'autodichia, no? Per cui o decidono in Parlamento oppure no. Autodichia, sai come si traduce, no? I soldi sono vostri, io me li porto via. Questo è... l'autodichia vuol dire, sì, questo. Sì. Credo che i greci la intendessero proprio così. I soldi sono miei e io me li porto via. Auto di chi? Probe da matti. No, però scusa, Oscar, qui c'è un problema. Perché il presidente dell'INPS fa questa proposta? Perché Renzi non cavalca questa proposta? E perché allora, in Parlamento a me non piacciono troppo le reazioni. Per esempio, su Repubblica c'è un'intervista di Cesare Damiano, che è una persona che stimo, presidente, che dice il presidente dell'INPS la pianti di invadere il campo della politica. Beh, capisco, ma non approvo. La domanda che hai fatto tu invece, come mai Renzi non cavalca queste proposte di Boeri, per me è più singolare, nel senso che non trovo la risposta adeguata. Perché? Boeri ce l'ha messo lui, lo voleva fare ministro, poi non ci riuscì e poi si sgravò mettendolo presidente dell'INPS. Sono tutte proposte che hanno fondamento e poi sono anche molto popolari da una parte, dall'altra non sono popolari nelle platee toccate, ovviamente. Però Renzi si comporta come se in realtà poi gli desse quasi fastidio. Ma Io tra l'altro me lo ricordo, se non sbaglio, Renzi quando era presidente della provincia, quando stava per scalare il Partito Democratico, mi pare che sui vitalizi la pensasse così: basta vitalizi. La pensava qui sulla Rai, su tante cose che poi di fatto, no, ecco appunto, quindi non mi sembra che sia un argomento fuori dal suo gergo politico, no, dalle sue dichiarazioni degli ultimi 3-4 anni, anzi, ecco. Per cui caro Presidente del Consiglio, faccia sua la proposta Boeri, però cosa bisogna fare? Poi andare in Parlamento da Grasso e Boldrini, vedere se quelli lo approvano e fare una campagna politica. Dopodiché, quando anche lo approvassero, ci sarebbero le impugnative di coloro, vedi, consiglieri regionali che impugnano quando ci sono le riforme dei vitalizi. Benissimo, ma è una battaglia politica da condurre apertamente in nome del diritto dei giovani, di coloro che non avranno mai neanche un centesimo di questi regali. Questo è il problema. Infatti, non pensare al fatto che i vostri figli, cari nonni che avete maturato le pensioni con regole che c'erano, non le avranno le pensioni, proprio perché forse abbiamo dato un po' troppo in passato. Altro che un po' troppo, ma tanto, cioè con moltiplicatori pazzeschi, cioè, capito? Se uno vuol fare questo ragionamento lungimirante lo fa, poi se uno dice no, non mi tocchino la pensione. Però è uno scontro politico, almeno su scelte alte, su cose, no, invece che sulle miserie che vediamo questo spesso. Certamente. A proposito di miserie, è una miseria quella che coinvolge il capo del calcio italiano Tavecchio, che in un colloquio, c'è da dire rubato, sicuramente rubato, ha definito ebreaccio una persona, Anticoli, immobiliarista, che peraltro dice sì, ma io me lo ricordo, lui era uno proprio che faceva battute razziste, oggi al Corriere della Sera dice faceva proprio battute così, no? Poi già, sapete che Tavecchio ha detto gli omosessuali teneteli lontani da me, poi già in passato disse tipo Ba, calciatore che si mangia le banane e viene qui a giocare in Serie A, e le donne definite handicappate fisicamente rispetto agli uomini nel calcio. Cosa serve di più? Non lo so, che cosa serve di più a questo sistema del calcio, perché il problema sono, come è noto, chi li ha eletti, lui, i mandanti di Tavecchio. Siccome il sistema del calcio nasce e va avanti come pilastro economico, tanto per ricordare una cosa, sui diritti televisivi, su un'asta falsata pubblicamente col concorso di tutti, un sistema così marcio esprime personaggi di questo tipo. La mia opinione quindi non è solo Tavecchio, su cui mi associo, dovrebbe andarsene da parecchio tempo. Il problema è il sistema che in quanto tale purtroppo esprime, fa scelta di questo tipo, esprime personaggi di questo tipo. Non è un giudizio populista, perché si può cambiare, c'è gente dall'interno che ci ha provato a cambiare. Cioè, quando si candidò Albertini, non è che ci andasse piano. Albertini che oggi peraltro dice sul Corriere della Sera ora Tavecchio ha stancato. C'è un po' anche qui, secondo te Oscar, una sensazione di nuove generazioni in contrasto con le vecchie generazioni? Sì, ma c'è la sensazione, no? Che le stravecchie vincono ancora, c'hanno tutto in mano, si fanno gli accordi violando le regole delle gare che loro stesse avevano scritto con Infront. Infront è uno scandalo enorme ed è condiviso a cavallo tra la politica e il calcio e la televisione, quindi è un pezzo di storia italiana Tavecchio, è un pezzo di storia. Ma è chiaro, italiana. Se volete dire la vostra anche su Tavecchio, 800 24 00 24. Tra l'altro, caro Oscar, ci sono già degli ascoltatori, ascoltatrici. Vogliamo sentire Maria. Come che no? Ci chiama da Roma, per esempio. Maria, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, a me colpisce molto, e sui giornali leggo regolarmente che Marini ha sbagliato, però è onesto, Marini ha fatto delle cose Marino. Sbagliate, però è onesto. E lei non è onesto, mi scusi, noi siamo un paese che non paga le tasse, che non paga il biglietto dell'autobus, che non paga la RAI, beh, questo quello si potrebbe anche transigere. Però la RAI, sulla RAI, Oscar Giannino sta esultando, no, ma come un gol, la come signora come esprime lo stato di d'animo diffuso. Brava Maria, però cosa voleva dire? Io volevo dire, uno che si fa pagare i viaggi e dice che l'ha invitato il Papa, uno che si fa pagare i pranzi e dice che ha invitato l'ambasciatore, è forse un ladro di polli, non ha forse preso tangenti da 100 però milioni. Però lei non lo vede molto onesto. Però non mi sembra un esempio di onestà, dal momento che noi siamo sempre a dire perché gli italiani non pagano le tasse, perché gli italiani non pagano questo, per quello non pagano quello. La sensazione, Maria, io spezzo una lancia per il suo intervento. Caro Oscar, qui la sensazione ragione è che dire vabbè, ma forse se questo ha fatto rubare su qualche scontrino rispetto a quello che rubano quelli che rubano molto di più, è abbastanza onesto, no? Abbiamo sempre questo, sì, però voglio dire, puntare l'asticella al ribasso. Tutte queste gaffe totalizzate da Marino sulla credibilità sua personale alla fine hanno reso il terreno sotto i suoi piedi peggio che l'argilla quando piove, ecco, questo è il punto. No, però è interessante quello che ci dice Maria, dire insomma se ha fatto davvero quello per cui è accusato, cioè avere truffato su qualche scontrino, non è che si può dire per questo vabbè, ma dai, sono quisquiglie. Comunque noi voglio dire, dobbiamo puntare a uno che fa le cose poi al 100% di poi, bene. Tutti naturalmente dicono di sapere, per esempio mi ha colpito ieri Scalfari che l'ho liquidato dicendo ma quello era un megalomane, tutti lo sapevano. Io non ho niente da criticare Di Marino perché tutti lo sapevano che era un megalomane, dal campo scientifico a quello civile a quello... poi ex post lo dicono tutti, però all'inizio sembrava la svolta, ecco. Questo è vero. Giuseppe dalla provincia di Piacenza, buongiorno. Buongiorno Ale, buongiorno Oscar. Volevo chiedere una cosa ad Oscar, no? A proposito di una questione che mi furfulla in testa da un po' di tempo, ed è a proposito dei vitalizi, di questi vitalizi. Sì. Cioè, secondo me, no? La concessione di questi vitalizi è stato un chiaro abuso, una cosa anticostituzionale, no? Perché se l'articolo 3 della Costituzione dice che siamo tutti uguali di fronte alla legge, è stato commesso un'anticostituzionalità quando questi diritti sono stati concessi, no? Per cui secondo me dovrebbe essere facilissimo dire guardate signori, voi vi siete concessi qualcosa di anticostituzionale, per cui non solo questi diritti sono aboliti, ma dovete restituirci quello che vi siete rubati fino adesso. Cosa ne pensi? Grazie, è un ragionamento sbagliato. No, non è un ragionamento sbagliato, ma non è un ragionamento così lineare, per così dire, perché il problema è quello di fronte al quale la Corte non può che avere un po' di attenzione, di fronte al fatto che una volta che ha assunto legittimamente una decisione su un trattamento, e illegittimamente significa l'organo che la decide ne ha pieno potere di deciderla, allora a quel punto ha un certo fondamento nel nostro ordinamento purtroppo l'idea che il patto va rispettato. Allora questa questione dei diritti acquisiti, che non è come dicono tutti non si toccano, perché in innumerevoli sentenze la Corte Costituzionale li ha toccati, però è comunque un punto su cui sapere che ci saranno le impugnative. Ma se ci sono solide ragioni come sono qua di fronte a una scelta di ordinamento che riguarda tutte le generazioni a venire, la Corte poi alla fine non può che tenere in considerazione. Ci vuole il coraggio politico di mettere le dita negli occhi di coloro ai quali vai a levare i soldi, questo è quello che manca. Sì, aggiungo io che la frase che ha detto Tito Bere è molto interessante quando dice, se la risentite con attenzione, la nostra idea è quella di considerare i vitalizi pensioni e quindi tagliare. Esatto. Questo è un punto dirimente, ecco, perché i vitalizi non sono considerati pensioni da coloro che fanno ricorso. Esatto. Non sono considerate pensioni e quindi non sono assimilabili a stringere a questo pensioni. Tipo di ragionamento. E quindi questo è un altro punto sul quale i ricorrenti poi fanno riferimento. Non è una pensione il vitalizio. Però tu che Renzi faceva l'indiano di fronte a queste mie o no? Vabbè, ma adesso dai, forza, diamogli Matteo, tempo. Dai che ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Fai tu alla proposta di Boeri, ti diamo 36 ore. 36 ore. Non di più. Beh, sono già molto di più di quelle che mi danno come contribuente quando ci sono le scadenze, perché non mi danno neanche un secondo, scusa. Vabbè, però lo sai in anticipo. Ah, ecco. Lo sai in anticipo, ti dicono che il 10 di dicembre pagherai questo. Sì. Ti organizzi. Certo. Oggi giorno dei defunti, mio giorno, quindi vabbè, lo sappiamo tutti l'anticipo. Vabbè. Alessandro da Udine, buongiorno Alessandro. Buongiorno cari Milan, dico Milan perché secondo me No, c'è una vecchia, c'è una vecchia diatriba. No, perché deriva dai vecchi, dalle vecchie orde di barbari e quindi dal nome slavo Milan. Questo allora, mio abbiamo dire. Come Padoan e Padoan che non si pronuncia alla bene. No, appurato questo, cari Alessandro e Oscar, mi verrebbe da dirvi in relazione alla questione sollevata o al punto posto da Boeri, ma dico, ma ci siete o ci fate? Vi chiedete perché Renzi non farebbe mai propria e la tua la risposta è di Boeri? La risposta è ovvia, Renzi rappresenta il vertice di un sistema di potere, Renzi incarna il peggior marciume di questo sistema di potere e quindi non adotterebbe mai scelte suicide. Questo è quanto Alessandro. Però Alessandro, guarda che se chi le adotta si becca un pacco di consensi, perché i politici resistono, ti faranno gli sgambetti. Sì, ho capito, però vai in Parlamento, ti fanno gli sgambetti proprio sulle scale del Parlamento. Ti fanno gli sgambetti, ma poi il Parlamento ci rientra trionfalmente. E bisogna scegliere nella vita che quali tipi di consensi, se quelli che si contano o quelli che si pesano, come diceva Goccia. E in democrazia dovrebbero essere quelli che si contano, non quelli che si pesano. State dicendo che lui è prigioniero di occolocrazie, oligarchie, però il Renzi che ci piaceva da Leopoldo era un po' diverso, almeno parole. Questo sì. Allora, l'Oscar, vogliamo darlo l'Oscar prima della pubblicità? And the Oscar goes to... al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Non ho un'opinione formata in questo, ma vuole gli skate, sai che lui vuole vendere i quattro. Qualunque la proposta sia, lui risponde: fuori gli skate. L'ultima sul Corriere ha lanciato l'idea di una ZTL, cioè far pagare i turisti che entrano a Venezia nel centro e far pagare le grandi navi che entrano in laguna. Gli do l'Oscar perché ha detto questa frase su Celentano, ha detto: la spiego anche a Celentano. Certo, ci vuole un po' di calma vista l'età, ma gliela spiego con calma anche ad Adriano Celentano, se vuole. Vabbè, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. È un altro a sentire questi microfoni, secondo me. Sì. Perché Brugnaro, le Brugnaro dice pirotecniche, lo come vogliamo, devo dire, a questi microfoni quando vuole, anche domani. Non la tocca piano, per così dire. Io invece lo do alla collega della stampa, Tonia Mastrobuoni, che è inviata alla stampa a Berlino, perché a proposito di questa vittoria di Erdogan in Turchia, che a me non piace troppo, ma i turchi lo hanno rivotato in massa, per fortuna non ha i numeri per cambiare la costruzione da solo, ma Tonia Mastrobuoni dice: adesso la Merkel ci ha da riflettere, visto che ci ha scommesso così tanto su questo Erdogan, che è un po' una mina, è una mina in termini di autocrazia, del fatto che fa finta di chiudere un occhio sull'ISIS e così via. La Merkel è meglio che ci rifletta un po', perché si esporta troppo a sostenerlo, ed è un punto della politica europea tra i tanti casini della Libia che ieri minaccia l'Italia, eccetera, eccetera, su cui riflettere. Eh sì, perché la Turchia, insomma, è quella che molti vogliono nell'Unione Europea, insomma, riflettiamo anche su questo. Comunque, 800 24 00 24, state con noi, avremo ospiti Antonio Padellaro, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Roma, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Salmoiraghi e Viganò. Le 8:38 minuti, caro Oscar Giannino, siamo qui. Eccoci qua. Ma sai che quando stamattina ho letto sul Corriere questo ritratto di Erdogan, quello firmato da Antonio Ferrari, e al terzo aggettivo, quando diceva dei megalomani, autorità, eccetera, dico: ma che è De Luca? De Luca. Insomma, ci sono dei tratti, però, secondo me. Forse se vuoi ti faccio sentire cosa ha detto De Luca di Gotò. Lo sai cosa ha detto di Miguel Gotò? Il tanghero. De Luca, ce l'abbiamo da sentire. Tale Miguel Gotò. Senti la voce. Io pensavo sinceramente che fosse un ballerino di flamenco, un tanghero. Però non è male. Il dolore più straziante. Gotor. No, Gotor. Grido di dolore. Gotor. Si è diffuso. Vabbè. No, Gotor. Però guardate, io sono convinto di quello che ho detto come battuta. De Luca è uno per gli accoltellamenti a Renzi futuri, è un potenziale Erdogan. Cioè, io è un decisionista autoritario. Sì, ho pochi dubbi su come si rivolge all'informazione, agli avversari nel partito, fuori dal partito, uno di quelli che... un Erdogan italiano. A proposito di accoltellatori, il sindaco, o meglio ex sindaco Marino, così ha definito, insomma, i traditori che hanno tradito, sono andati dal notaio. Allora ne parliamo con Antonio Padellaro, ex direttore del Fatto Quotidiano. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno a voi. E con, non lo so a questo punto se si sente una traditrice, Valeria Baglio, che è stata presidente del Consiglio Comunale. Buongiorno Baglio e benvenuta. Ci sente? No, abbiamo la linea da ripristinare. Vabbè, insomma, lo chiediamo a Padellaro. Allora, sono traditori coloro che hanno firmato i 26 che sono andati dal notaio facendo cadere Marino? Beh, qui abbiamo un problema, cioè c'è una tragedia, che è la tragedia di Roma e dei romani, e poi c'è la farsa, che è quella a cui abbiamo assistito in queste settimane, con, appunto, alla fine anche con le espressioni del sindaco Marino, che sono, diciamo, un pochino sopra le righe. È chiaro che aver tenuto per 8 ore in una stanza i consiglieri comunali del PD per convincerli a firmare le dimissioni, qualche problema certo. Evidentemente c'è. Un po' di waterboarding gliel'hanno fatto, insomma. Sì, ecco, perché se l'avessero voluto fare spontaneamente l'avrebbero fatto. No, vogliamo chiederlo minuti. Perché l'abbiamo ripristinata la linea. Valeria Baglio, buongiorno. Buongiorno a voi. Non si sente traditrice? Ma guardi, traditrice, io in questi 2 anni e mezzo ho lavorato in maniera veramente instancabile. No, ma certo, per l'atto finale. Dicevamo, no? Ho sostenuto il sindaco Ignazio Marino, io ero tra quelle che anche prima di Mafia Capitale venivo considerata e chiamata filo governativa, quindi diciamo che... E perché allora? Però la domanda e la risposta è sì, no? No, non mi sento una traditrice, mi sento una persona che insieme al Partito Nazionale, ai miei colleghi, dopo una lunga e tormentata discussione abbiamo stabilito che l'unica strada possibile da intraprendere fosse quella delle dimissioni, anche se io devo dire che ho provato fino alla fine la strada del dialogo e ho provato fino alla fine a dire che la cosa migliore sarebbe stata andare in aula, è per questo che ha pianto di emozione. Perché ha pianto? Ma guardi, io ho pianto perché poi noi siamo politici, siamo anche persone. Ma certo. E ho visto che venerdì 30 si sanciva la fine di un'esperienza a cui appunto ho dedicato molto. Sono anche orgogliosa del lavoro che ho fatto, spero che poi nel proseguo della trasmissione posso dirlo. E capire che tutto ciò si concludeva significava anche fine di un'esperienza, ma soprattutto il mancato raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo posti. Ma volevate andare in aula? Posso chiedere, ricominciamo un secondo da Antonio Padellaro, quanto amaramente secondo te la paga il PD nel prossimo futuro, quando si voterà mai a Roma questa storia? C'è la possibilità di ricucirla o in realtà per la sinistra del PD, il tuo giudizio Antonio, è come per la destra dopo Alemanno, c'è un lungo cammino di ricostruzione totale? Penso che questa seconda ipotesi sia la più fondata. Oggi, per quello che valgono i sondaggi, ma credo che siano realistici, danno il Partito Democratico come terzo partito a Roma, era il partito di maggioranza relativa, quindi ha perso moltissimi consensi. Diciamo che tutta la gestione di questa crisi è stata disastrosa e sono d'accordo con le considerazioni che faceva il presidente del Consiglio Comunale, purtroppo al di là della buona volontà di tanti nel Partito Democratico, perché non lungi da me di mettere tutti nella stessa situazione, è stato un disastro. È un disastro dovuto a che cosa? Dovuto al fatto che quando Renzi dice che Marina aveva perso il contatto con la città, dice una verità, ma dovrebbe anche aggiungere il Partito Democratico ha perso il contatto con la città, che è un eufemismo, perché in realtà non è che ha solo perso il contatto, ha fatto dei tali danni di immagine, di gestione. Ricordiamo che c'è la relazione del commissario Barca che dice le cose che dice sui circoli del Partito Democratico, quindi di un esponente del Partito Democratico, per cui non so come potrà nei prossimi mesi il Partito Democratico esprimere un candidato credibile alla guida della città. Peraltro si parla proprio dello stesso Barca, oggi sui giornali uno dei nomi che circola è proprio questo, Fabrizio Barca potrebbe essere il candidato. Certo, ma al di là della qualità delle persone, ripeto, ci sono delle persone degne ovviamente del Partito Democratico, è proprio la sfiducia che ormai è una parte dei cittadini esprime nei confronti di questa. Però mi sono perso una cosa, terzo partito, perché il Movimento 5 Stelle capisco sopra. Quale sarebbe? La destra, che la Meloni coalizione. E la coalizione di destra è data meglio del PD. È data meglio del Partito Democratico. E Valeria Baglio che pensa, al di là di quello che avete fatto, avete impostato nella giunta, che però in realtà non è andato da nessuna parte, il cammino di fronte a voi a questo punto è un cammino di sconfitta certa? Poi ci si batte sempre in politica, però, perché siccome le macerie sono un po', ne dicono i sondaggi, evidenti, e lei che pensa? Ma che è un cammino in salita, in cui noi dobbiamo ricostruire questa lacerazione con la città. Dobbiamo guardare avanti, ripartire con serietà e con competenza. Quindi, oltre ad individuare attraverso un confronto e un dialogo la persona che vorremmo proporre poi come candidatura a sindaco, che dovrà necessariamente passare per le primarie, secondo me, per appunto ricucire, ricostruire con la città di Roma un grande, e suscitare un grande dibattito. Ha bisogno anche di un, diciamo, il partito si dovrà confrontare anche sulla squadra che vorrà mettere in campo, perché un della classe dirigente, insomma, che vorrà valorizzare, perché sicuramente un problema dell'amministrazione Marino è stata anche la squadra di governo, che forse non conosceva bene Roma e che forse non è stata in grado di superare. Però Valeria, gli esponenti storici che la conoscevano bene, perché avevano messo in piedi il sistema di governo della città, erano quelli che erano conniventi con il malaffare. Quindi il problema è adesso quello che chiedo a Valeria, ma anche a Antonio Padellaro, perché è uno dei punti toccati anche dal Fatto Quotidiano stamattina. A Roma il problema è che la politica fa l'ennesimo passo in piedi o tenta candidati che perdono poi di fronte a chi viene fuori dalla politica, i Marchini, i Sala a Milano e così via. Oggi il Fatto Quotidiano c'è un pezzo di Stefano Vetri che dice vogliono commissariare tutto. Antonio Polito dice volevano rimettere la politica al centro, mettono la bandiera bianca perché non sono capaci. Che pensa Valeria Baglio su questo? A Roma che fa? Io penso che Roma ha bisogno di un politico, di una persona che insomma abbia tutte le competenze politiche, perché adesso io veramente faccio i miei auguri al commissario prefetto Tronca, questo governo di passaggio, no? Che commissariale, che mi auguro. Però dice serve la politica. Diciamo che le prossime elezioni che ci saranno tra maggio e giugno, Roma ha bisogno di persone che conoscano e che sappiano fare politica. Lo so, vediamo. Padellaro è della stessa opinione. Serve che la politica faccia un passo avanti o un passo indietro? Viviamo in un sistema democratico rappresentativo, quindi diciamo, se vogliamo abolire la rappresentanza politica, che poi ci piaccia o non ci piace, quella che stabiliamo attraverso il voto, il nostro voto libero, ecco, ce lo dicano. Io ho l'impressione però purtroppo che la tentazione di Renzi sia quella di creare nelle città dove lui non controlla direttamente, perché Renzi ha un problema nella periferia del paese, del Partito Democratico in molte regioni, nella stragrande maggioranza delle città italiane, nella stragrande maggioranza di creare una struttura di tipo destà, la pensi un po' come Cacciarieri? Ma assolutamente, mi permetto di dire, ma per senza fare ombra al professor Cacciari, che questa cosa l'avevo scritto un mese fa sul Fatto Quotidiano, quando si era cominciato a parlare di Sala, sindaco di Milano, i commissari, avete visto anche la risonanza è stata data alla nomina del prefetto Tronca, che sarà 6 mesi in carica, è un piccolo periodo del quale dovrà cercare di gestire quello che c'è da gestire, ma insomma ecco, attenzione, perché se dobbiamo poi Roma deve avere poi appunto il podestà nominato da Renzi. No, questo no. Però la notizia su Roma, che secondo me è importante, voi oggi avete fatto il titolo principale, ma la notizia è anche sul Messaggero, è la vicenda che riguarda poi Mafia Capitale. Giovedì si apre il processo e questa lista di 101 dirigenti che sono citati da questa commissione a vario titolo, è la commissione che ha portato poi allo scioglimento di tutto e che finalmente mi sembra di poter dire, non so se siete tutti d'accordo, in maniera positiva è stata desecretata. Cosa scoprire? Era ora, ma che vuol dire essere in quella lista? Vuol dire, attenzione Padellaro, vuol dire già essere bollati come dei dei farabutti? No, questo, questa è una lista che hanno fatto i giornali, è una lista che ha il timbro del prefetto, sì, Gabrielli, quindi è una lista che è stata fatta ovviamente, che ha dei fondamenti anche probabilmente amministrativi, di reati amministrativi, eccetera. Però tutto questo tema del desecretare significa che tutta questa crisi, e non so cosa ne pensa Baglio, è stata condotta in maniera poco trasparente, perché l'affatto che non ci sia stato un minuto di dibattito nell'assemblea capitolina, chiaro. In effetti, che l'assessore alla legalità Sabella dicesse: mi avete chiamato per questo e non mi dite i nomi di 101, come se io... No, non so, Baglio, c'è stata trasparenza oppure no, per concludere? Guardi, noi abbiamo vissuto due fasi dell'esperienza nell'amministrazione Marino, quella prima del 2 dicembre e quella dopo il 2 dicembre. E prima del 2 dicembre, diciamo, c'era una difficoltà ad andare avanti, a portare atti in giunta, in consiglio. Ma che è successo il 2 dicembre, ce lo ricordi? Perché il 2 dicembre... Il 2 dicembre chiaramente scatta Mafia Capitale. Ah, ecco, Mafia Capitale, no? Scusi, il 2 dicembre del 2014, sì, chiaro. Perdonate. Quindi un anno fa. Quindi noi praticamente il primo anno dell'amministrazione è stato un molto rallentato, un anno perso, io direi. E quindi solo dal 2 dicembre del 2014 si è rimessa in moto un lavoro, insomma, politico, che cominciava ora a dare i suoi frutti. E quello che, diciamo, su cui ho ragionato e che mi ha portato poi anche a firmare queste dimissioni è stato proprio questo, cioè le persone possono aspettare un anno, qualcosa di più, per avere i primi frutti dell'opera di un'amministrazione, ma poi non giustificano più i ritardi, seppure questa amministrazione è stata caratterizzata appunto da grandi problemi, perché noi siamo arrivati, abbiamo ereditato più di 800 milioni di debiti, il 2 dicembre 2014 è scattata Mafia Capitale. E noi ci siamo messi, guardate, non è stato facile, perché avevamo i ROS ogni giorno nei nostri uffici, la magistratura, noi abbiamo cercato di aiutare in tutti i modi e siamo stati disponibili e collaborativi. Ma non c'è stato dubbio che... E anche trasparenti. I 101 parole hanno segretati, quindi sa la trasparenza. Non so cosa dire, io non voglio fare sempre la parte di chi io obietta a chi ha governato a Roma, però le gare all'ATAC hanno continuato a essere come erano e così via, e le procure dovevano tornare perché le cose tornavano come prima. La relazione dell'ANAC sulla percentuale di gare senza affidamenti pubblici è notissima, ed è la stragrande maggioranza, quindi i numeri sono lì. Comunque la storia degli ultimi due anni di Roma non è ancora scritta tutta, andiamo a rivedere, ci sarà ancora molto da scrivere. Vi ringraziamo, Valeria Baglio, ex presidente dell'Assemblea Capitolina. Ci hanno richiamato via SMS a dire che non è il Consiglio Comunale, è l'Assemblea Capitolina. Roma Capitale. Non mancare di rispetto. E grazie ad Antonio Padellaro, Fatto Quotidiano. Grazie. C'è spazio, Antonio, per Daniele da Padova, che ci chiama. Daniele, buongiorno. Pronto? Sì, eccoci. Dica. Buondì. Allora, io ritornavo un attimo sul discorso delle pensioni. Ottimo. Oh. Io sono in pensione dal 2007 con una buona pensione, appena sotto gli 80.000 lordi, però da Prodi in poi io mi sono visto ridurre annualmente la pensione. Siamo circa sui 200 euro al mese. Questo la fa arrabbiare. Esatto. Aspetti Daniele, dico, ma perché vogliono trattenermi ancora soldi? Una tanto ai giovani, per carità. Aspetti Daniele. Lei pone proprio la questione di cui parla Boeri, perché come vede, lei, essendo un pensionato di livello elevato, ha subito gli interventi di solidarietà. Invece i vitalizi dei politici, per questo bisogna compararli alle pensioni. Invece Boeri parla degli 80.000 in su. Lei sugli 80.000 è già sotto e se l'è beccato. E invece i vitalizi no, e invece i vitalizi pure. Quindi, come vede, Boeri, Daniele, si batte perché lei non sia solo a sostenere il sacrificio, ma i politici idem. Quindi questo è ottimo. Comunque è un tema, credo, dalla percezione ascoltatore, che nei prossimi giorni Renzi pensa bello. Renzi, hai 35 ore e 30 minuti per pensarci. Dai. Alla prossima, grazie Oscar Giannino. Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Diciamolo a voce alta. vogliamo Oscar Giannino, sindaco di Roma e vice sindaco Alino.